Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Dallo studio dell'emittente radiofonica Rock FM. Trasmettiamo Eclettica! Cari ragazzi, buon pomeriggio. Il programma Eclettica. Rubrica dedicata ai problemi tecnici dell'agricoltura. Di e con Giulio Caperdoni. Inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive. Da parte mia, a tutti voi, l'augurio di una buona visione. Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buon pomeriggio. Buonasera. Sera. Sera. Sera. Tra qualche istante vi trasmetteremo a colori Eclettica! Eclettica! Eclettica! Andrà in onda tra qualche istante Eclettica! Signore e signori, vi auguriamo buonanotte. Buonanotte. Buonanotte. È l'ultima eclettica della settimana, è l'ultima eclettica del mese. Benvenuti da parte di Giulio Caperdoni in questo 30 novembre, nel caso stiate ascoltando in diretta. Se invece state ascoltando grazie al podcasting, beh, allora, la data ve la dovete guardare voi sul calendario. Il nostro reclusorio era situato all'estremità della fortezza, proprio accanto al bastione del forte. Se mai ti capitava di guardare il creato attraverso le fessure della palizzata, chissà, non si potesse scorgere qualcosa, non vedevi se non un piccolo lembo di cielo e l'alto bastione di terra coperto di erbacce, mentre su e giù per il bastione, giorno e notte, passeggiavano le sentinelle. E subito pensavi che sarebbero trascorsi interi anni, e tu proprio così ti saresti ancora avvicinato a guardare per le fessure della palizzata e avresti veduto quello stesso bastione, le stesse sentinelle e lo stesso piccolo lembo di cielo. Non di quel cielo che sovrastava al reclusorio, ma di un altro, lontano, libero cielo. Questo era l'incipit di Memorie di una casa morta di Fyodor Mikhailovich Dostoevsky. You rise and fall. You rise and fall.

miss the lightning bolt of the clock tower, you won't get back to the future, and we'll have a major paradox. Wait, wait, a paradox? You mean one of those things that can destroy the universe? Precisely. Marty, you have to stop those guys at all costs, but without being seen by your other self or your parents. 10-4. Dopo nell'ordine Sarandon e Bob Dylan, Bob Dylan però remixato da Mark Ronson, è la volta di Hayden, cantautore canadese dell'Ontario per la precisione, che era qualche anno che non si faceva più sentire. In effetti ora è alle porte un album che è il quinto della sua carriera, che si intitolerà In Field and Town, uscirà ad inizio 2008 e qua in Eclectic abbiamo la possibilità di anticiparlo con un pezzo dal titolo Where and When. I Where is he? Who? Calvin Klein. Who? The guy with the hat. Where is he? Oh, he went that way. I think he took your wallet. I think he took his wallet. Breathe deep, let the red rust fill your lungs. See it eat. There is history in this dust. It's been a long way down, a long way down for me, a long way down, a long way down for me. Believe millions once sang my name underneath. I am gilded, proud and praised. It's been a long way down, a long way down for me. To ruin. It's been a long way down.